Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Per sostenere la concorrenza, viene detto, bisogna liberalizzare il mercato, il mondo del lavoro, e dare vita a tutta una serie di altre riforme strutturali che, soprattutto in Italia, ancora mancano. Anche se avessimo la bacchetta magica e riuscissimo a tradurre in realtà tali utopie, di quanto scenderebbe il costo della manodopera? Non certo di quello che servirebbe per fare concorrenza nei prezzi, ad esempio, a 16 milioni di camicie importate a mezzo dollaro alla dozzina. Un'altra strategia indicata per reggere il confronto è quella di convertire le aziende diversificando le produzioni. Ma cambiare una produzione in un'azienda non è qualcosa che si può fare dall'oggi al domani. Tutto questo comporta un cambiamento nell'impiego della manodopera e l'eventuale surplus dove andrebbe? Verrebbero licenziati o parcheggiati come peso morto nell'azienda convertita? Abbiamo già visto in passato come il cambio di attività comporti dei tempi lunghi, sia per adeguarsi alle nuove tecnologie, sia per consolidare il mercato. Chi invece subentra dopo, comprando solo le tecnologie, non ha questi tempi morti. In pratica, chi si converte ha tutti gli oneri. Chi arriva per ultimo trova la strada spianata e continua ad avere dalla sua un centesimo del costo della manodopera. Una volta l'imprenditore che creava uno stabilimento sapeva che la produzione, una volta ammortizzati i costi, avrebbe garantito dei profitti e prosperità per lui e per la sua discendenza. Adesso invece non avrebbe certezza su quanto potrebbe durare la produzione, quindi dovrebbe accantonare gli utili per le eventuali conversioni produttive. Saremo ancora in grado di trovare imprenditori che, oltre al rischio di impresa, si assumano anche l'impegno della continua diversificazione, con gli oneri conseguenti? O piuttosto troveremo imprenditori che si metteranno nel ramo commerciale, convertendo le fabbriche in magazzini di merci delle tigri orientali, facendo i bravi distributori nel mercato nazionale? Così le fabbriche da 10, 100, 1000 lavoratori diventerebbero depositi da qualche computer e 2, 10, 50 dipendenti. E gli altri? Romolo. Caro Romolo, quelli che lei espone sono problemi molto concreti che riguardano il futuro dell'industria italiana. La domanda di fondo mi sembra questa: è possibile pensare a un futuro industriale e manifatturiero in un paese che ha un costo del lavoro molto più alto di quelli dei grandi paesi concorrenti sul mercato globale? Ebbene, la risposta è sì. E soprattutto perché la concorrenza verterà sempre meno sul fattore prezzo e sempre di più su altri fattori, come la qualità, l'innovazione, la moda, la sensibilità. Se noi ci pensiamo, solo una piccola parte dei nostri acquisti e delle nostre scelte risponde alla soddisfazione di bisogni immediati ed essenziali. Per una larga parte ci lasciamo guidare dall'emozione, dalla ricerca di una soddisfazione, dalla possibilità di possedere qualcosa che ci sembra rispondere meglio alla nostra personalità. E questo è sempre più vero anche in paesi come la Cina, che si sono aperti solo negli ultimi anni a quella che chiamiamo comunemente la società dei consumi. Ecco allora che i fattori di successo di un'impresa saranno sempre più l'innovazione, non solo tecnologica, la creatività, la capacità di anticipare le tendenze della moda. In questa prospettiva, gli spazi per crescere non mancheranno, anche e soprattutto per l'industria italiana. Come non essere d'accordo con la lettera di Bruna, ex insegnante, che ha ricordato le cattive esperienze avute con insegnanti provenienti in gran parte dal sud? Sappiamo tutti che buona parte di quello che ha scritto è vero e che purtroppo la sinistra non vuole ammettere che i voti alla Lega sono stati dati anche per queste storture che tutti i giorni sono davanti ai nostri occhi. Negarle è inutile, ammetterle e cercare di sanarle, magari senza i toni esasperati della Lega, aiuterebbe i cittadini a sentirsi meno discriminati e forse a votare ancora dall'altra parte. Patrizia. Scrivo a proposito delle case abusive ad Ischia. Ammesso e non concesso che esista l'abusivismo di necessità, quando poi queste case abusive, spesso costruite senza criteri antisismici e su terreni franosi, crollano per calamità naturali, allora non si dovrebbe avere né diritto di lamentarsi né richiedere un risarcimento, visto che le autorità ne avevano disposto l'abbattimento e che questo non è stato compiuto. Donatella. L'Italia è oppressa da una minoranza di tiranni prepotenti chiamati centri sociali. Questi intoccabili sono liberi, come già ai tempi del 68, di occupare, rubare, imbrattare, insultare, inneggiare all'illegalità, ad esempio tramite i loro siti web. Non solo. Ma ad ogni occasione trovano il modo di ostacolare e disturbare le manifestazioni degli altri, cercando di tappare la bocca a quelli che non la pensano come loro. Puro stile fascista. Li abbiamo visti ad esempio a Milano il 12 dicembre e il 25 aprile e in tanti altri casi rompere i cordoni di sicurezza, entrare urlanti nelle piazze dove altri stavano esercitando il loro sacrosanto diritto a fare i propri convegni. Il loro desiderio è quello di boicottare, impedire, intimidire le manifestazioni degli altri, un desiderio squisitamente da regime totalitario. Tutto ciò è gravissimo, non solo per i danni che provoca, ma perché distrugge alla radice la nostra libertà. Nessuno ha voglia di fare nulla, se sa di correre il rischio di trovarsi di fronte folle che urlano e insultano, mettendo in pericolo l'incolumità fisica degli altri. Ed è proprio in questo modo che nascono e si affermano i regimi fascisti o i sistemi mafiosi. L'unica cosa che non si capisce è perché questa gente goda di tanta immunità e impunità. Alla fine le forze dell'ordine li lasciano fare, con la solita scusa di evitare disordini. Ma tanto i disordini li hanno già causati. E non è possibile che la nostra libertà e democrazia continuino a rimanere ostaggio di questi tiranni. Sembra che il 25 aprile lo festeggiamo invano. Mara. Caro direttore, sono una mamma di un bimbo di 20 mesi e abito a Padova. Sono stata molto turbata dalla vicenda dei coniugi e del loro figlioletto brutalmente tamponati e uccisi sulla A4. Non so quanto quello che è successo sia stato causato dall'alcol, dal modo di guidare sicuramente aggressivo di quelli che vanno in giro col SUV o dall'arroganza che si vede abitualmente sulle strade, e in particolare in autostrada. In ogni caso, trovo che questo episodio sia assolutamente ingiustificabile. Sarebbe bello sapere cosa succederà a quest'uomo, perché quello che l'opinione pubblica sa è che chi ammazza qualcuno per strada resta sempre impunito, a meno che non sia un extracomunitario. Mi piacerebbe, da cittadina comune, sapere cosa farà la giustizia, come lo punirà e se lo punirà. Possibile che in Italia uno ammazza una famiglia intera e al massimo gli ritirano la patente per un anno? Barbara. Nei giorni scorsi era tutto un pullulare di gente Facebook che lanciava l'appello Saviano via da Mondadori. Siccome Saviano prima del 2006 lavorava al Manifesto, è ragionevole pensare che prima della Mondadori si sia rivolto anche a case editrici alternative? È immaginabile che alcune non abbiano accettato di pubblicare il suo lavoro? È altrettanto possibile che invece tra le diverse offerte Saviano abbia scelto quella che gli dava maggiore distribuzione, visibilità, garanzie e, come giusto, riconoscimento economico? È pensabile, vista l'attuale situazione di Saviano, un'altra casa editrice in grado di gestire il personaggio in termini di richieste, sicurezza e quant'altro? Mi domando sempre come sia possibile che tanta gente, soprattutto di sinistra come me, non sia in grado di pensare al di là di quello che scrivono Il Fatto, Repubblica, Il Manifesto e L'Unità. Saludos, Anna. Egregio direttore, sono esterrefatta da ciò che succede in questi giorni nel PDL. Sono della Lega e sono convinta che il paese abbia bisogno di riforme. Ma ciò che vedo e sento mi fa pensare che nessuno, ripeto, nessuno, le voglia veramente. Non so chi stia remando contro né perché, ma sono sicura che neanche il mago di Oz riuscirebbe a districarsi in questo marasma. C'è una maggioranza che finalmente ha la possibilità di fare qualcosa di concreto, e neanche stavolta si va più in là delle solite baruffe chiozzotte. A questo punto le dico sinceramente che qui o si fa qualcosa di serio o ci si rassegna e si continua di questo passo verso l'ignoto. Mi scusi, ma la nausea è tanta e il voto non è più una cosa seria, tanto che varrebbe la pena di eliminarlo e di lasciarsi andare. Io vivo in un paese piccolo, ma le dico che parlando fra di noi ci sentiamo impotenti e presi in giro da questi politici di dubbia capacità. Ho 67 anni, sono stata socialista, ora leghista, e fra poco mi augurerò che venga un altro Mussolini che metta in riga tutto. Penso di straparlare, ma la delusione è tanta e niente si può fare. Graziella, provincia di Vicenza. Pace a lei, direttore. Da che cosa parte il merito di un buon operaio o muratore, carpentiere, tornitore o saldatore e così via? Forse da uno stipendio di 1000, 1200, 1300 euro per arrivare a quei 100-150 euro in più di merito? Da che base parte il merito? Forse da queste buste paga? E nelle fabbriche partono da questa base? Il merito parte dal diritto lavorativo di avere la giusta retribuzione di base per vivere dignitosamente. Ma per imprenditori, artigiani e piccole imprese, i 100 euro in più non rappresentano il merito. Ho 52 anni, per 30 anni ho lavorato con la mia ditta e ho perso tutto in questi ultimi 4 anni. Non si preoccupi, un piccolo periodo di crisi e poi sotto di nuovo. Oggi lavoro come responsabile in un'altra azienda. Amo il lavoro e lo rispetto, apprezzando il momento. Nell'economia non ci vogliono grandi cose. In questi ultimi anni il lavoro non manca, si è solo fermato. Avere il diritto di essere pagati è questo che manca. La maggior parte dei lavoratori, purtroppo, non viene pagata. Mino. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.